Questo è il primo vagito del nuovo ring, questo è il suo grido di battaglia per mettere subito le cose in chiaro. Abbiamo cambiato le carte in tavola oggi, abbiamo stravolto le regole del gioco e ancora una volta abbiamo creato un piccolo, geniale laboratorio di idee. Con il vecchio ring abbiamo smosso le acque e con il nuovo corso cerchiamo da una parte di consolidare quanto è stato fatto e dall'altra vogliamo continuare a stupire e divertire, e divertirci, ovviamente. Ed eccoci qui dunque, riempiendo le vostre orecchie delle nostre perversioni vocali. Non vi spiego cosa sto intendendo, lo scoprirete senz'altro a breve. Ancora una volta giochiamo scorretti. Da una parte il Ring Online si occupa di tirare calci in culo ad un'editoria un po' stanca, possiamo dirlo, mentre qui invece ruttiamo senza la benché minima educazione verso le voci piatte, solite, noiose a cui siamo ormai assuefatti, le cui parole ci attraversano e non ci toccano. Questo è un modo nuovo di fare critica del videogioco, un modo nuovo di dire il videogioco. Questo è Ringcast. Godetevelo.